24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8 e 17 minuti, la terza parte di 24 Mattino. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia, Maria Latella, eccoci, ciao. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, ben trovati in questo inizio di settimana. Inizio di settimana, poi si fa per dire, eh? Iniziata sì, vabbè, ieri, però ieri era festivo. 349-238-6666, come sempre il numero per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio, fateci sentire la vostra voce. L'800-240024 per intervenire in diretta su tutti gli argomenti che vi aggradano. Tra un attimo parleremo di attualità internazionale, di Iran, di Libia, di quello che può essere eventualmente il nostro ruolo, anche il ruolo italiano, e poi avremo ospite, come si diceva, il leader della Lega, Matteo Salvini. E però cara Maria, vorrei iniziare se consenti, vorrei iniziare proprio da questi incidenti sulle strade, dovuti a persone che appunto guidavano ubriache. L'ultimo caso ieri nelle Marche, due donne, una di 34 e una di 43 anni, investite e uccise un uomo che appunto aveva bevuto. Prima di sentire la tua, Maria, se mi permetti, vorrei far ascoltare qualche ascoltatore, ti va? Certo, sentiamo. Via. Il tasso alcolemico nei guidatori deve essere portato a zero, come è in altri paesi. Solo in questo modo il guidatore sarà conscio di non poter assumere neppure una goccia di alcol. Secondo me stiamo pagando anche anni e anni di cattiva educazione e di mala informazione su cos'è l'alcol. Troppo si è enfatizzato, già veneta posso confermarlo, troppo si è enfatizzato sulla socialità, si è sottovalutata la gravità, si è estremizzato giustamente sulle droghe, però credetemi, l'alcol non si conosce quali sono gli effetti. Ed eccoli qua, i nostri ascoltatori. Vedi Simone, tutti e due i nostri ascoltatori fanno un'osservazione che condivido pienamente. Allora, lasciamo perdere quello che sta succedendo in Italia, guardiamo ai nostri paesi vicini. Intanto, il numero dei morti per questioni appunto legate agli incidenti stradali. In Gran Bretagna ci sono 28 vittime l'anno, le strade più sicure d'Europa. Al secondo posto la Danimarca, terza l'Irlanda, seguono Olanda, Svezia, Spagna e Germania. La Francia ha 48 vittime l'anno, l'Italia ne ha 55. Cioè, noi siamo nella fascia dei paesi con più morti sulle strade, insieme alla Bulgaria e alla Romania. Perché questo? In Francia, primo, la comunicazione, la pubblicità sull'alcol è ristretta in maniera limitatissima. Cioè non si può fare la pubblicità, la comunicazione pubblicitaria sull'alcol come la facciamo in Italia. Si fa in maniera molto più limitata e certamente non vedi pubblicità di alcol al cinema o nelle trasmissioni televisive più popolari tra i ragazzi. Secondo, è comune, cioè è assolutamente considerato scontato che se si esce in gruppo o in coppia, uno del gruppo non beve, ma non è una cosa eccezionale, è la norma. Lo so perché appunto vedo come si comportano i miei amici in Francia o gli amici di mia figlia in Germania. Quando si esce, uno del gruppo non beve, si esce in coppia, uno della coppia quella sera non beve, ci si alterna un sabato fede e un sabato fede. Esci da solo e vuoi berti legittimamente un bicchiere, anche due, a tavola con gli amici, torni in taxi o ti fai accompagnare da chi non ha bevuto. Questo è la norma e questo spiega perché noi abbiamo 55 vittime e invece la Francia 48 e la Germania solo 39. Perché non lo facciamo? Perché? Perché le regole in Italia, caro Simone, vengono viste come qualcosa che va osservato se sei stupido. Non rispettare le regole se ti rende figo. bisogna cambiare, invertire questo metodo di lavoro. Non so se ci sia questa dimensione culturale nella fattispecie, o subentri per esempio la dimensione ludica del quando sono in discoteca bevo, ma ce eccetera anche eccetera. In Germania però in Germania ce n'è uno che quando guida non beve. Guarda, al di là di questo, fammi dire solamente questo: la cosa curiosa è che ancora una volta e nuovamente si torni a parlare della necessità di una correzione, di un intervento sul diritto penale. Abbiamo la dimostrazione sotto gli occhi, e lo abbiamo raccontato con i dati, che in realtà l'intervento fatto precedentemente, quello per le norme sull'omicidio stradale, non ha funzionato. Nella sostanza non ha ridotto il numero di incidenti. Anche perché uno in Italia spessissimo sa che alla grida manzoniana della pena ferocissima poi segue il fatto che quella pena in un modo o nell'altro non viene applicata. In realtà sull'omicidio stradale la cosa è stata applicata, solamente che non funziona come deterrente, evidentemente. Non basta quello, funziona la prevenzione e il lavoro culturale, quindi a questo punto credo che la ministra dell'Interno Lamorgese stia proprio lavorando su questo, sulla prevenzione, che significa per esempio finanziare di più le forze della polizia stradale su strada, come dicevano i nostri ascoltatori, controlli, più etilometri, e anche questo bisogna dirlo, più illuminazione, perché se la strada delle due donne di Senigallia fosse stata un po' più illuminata, forse quella tragedia si sarebbe evitata. Può essere. Marta Dassù, direttrice di Aspenia, per venire a tutti i dossier esteri che sono sul piatto in queste ore, sono quelli che dominano non solamente le pagine dei giornali ma anche le discussioni. Buongiorno Dassù, benvenuta. Buongiorno a voi. Vai tu Maria, vai. Buongiorno. Marta Dassù, io prima di parlare di Soleimani e di quanto è stato innescata dall'attentato che ne ha procurato la morte, vorrei fissarmi su un tema che so essere caro anche a lei, ed è quello del ruolo italiano nella diplomazia e rispetto anche ai nostri partner europei. Questa mattina un articolo del Corriere della Sera rivela che ci sono contrasti tra Roma e Parigi, e ci sarebbe stato, usiamo il condizionale, un intervento, un ruolo di Parigi, della Francia, di Macron, per rallentare l'iniziativa diplomatica italiana, che aveva in Luigi Di Maio un interprete che avrebbe dovuto condurre una missione europea in Libia. Giorni fa Le Figaro, un quotidiano non propriamente filo Macron, metteva in luce come l'omicidio di Soleimani mettesse in difficoltà Macron, perché proprio Macron stava lavorando ad avere un ruolo della Francia molto più forte in quest'area del Medio Oriente. Lei che ne pensa? C'è il problema che l'Italia conta relativamente, ma c'è anche il problema che alcuni nostri partner europei, segnatamente la Francia, lavorano perché conti sempre meno? Ma forse messa così è un po' drastica come analisi. Direi però che indubbiamente fra Francia e Italia ci sono dei contrasti latenti sulla politica nordafricana. In Libia è abbastanza evidente che gli interessi energetici ci dividono, e la Francia ha appoggiato molto nettamente fin dall'inizio, direi, il generale Haftar insieme all'Egitto e alla Russia, mentre l'Italia, come noto, si è schierata dall'altra parte, cioè a favore del governo di al-Sarraj, riconosciuto ufficialmente dalle Nazioni Unite. Quindi sì, c'è questa dinamica che certamente non favorisce quello che è il sogno annunciato di Ursula von der Leyen, cioè l'esistenza di una commissione geopolitica, di un'Europa in grado di svolgere un ruolo internazionale vero, che è poi anche il disegno di Macron, la sovranità europea in campo internazionale. In realtà la crisi libica dimostra quanto l'Europa effettivamente non riesca a svolgere questo ruolo. A proposito appunto del ruolo della Francia, nella situazione attuale in Libia, la Francia conta davvero ancora qualcosa, o gli attori in campo sono cambiati radicalmente nel giro degli ultimi 6 mesi? Gli attori sono cambiati radicalmente, direi che gli attori principali, fondamentali, sono la Turchia, che ha deciso l'invio di migliaia di uomini sul terreno. Adesso vedremo in che tempi e con quali modalità, in appoggio al Serraj, e la Russia naturalmente, che invece appoggia Haftar. Dobbiamo tenere gli occhi sul meeting di domani a Sochi fra Putin ed Erdogan. Si potrebbe profilare una sorta di spartizione di sfere di influenza, come è avvenuto in effetti in Siria. C'è un vuoto lasciato dagli Stati Uniti. L'Italia è particolarmente delusa, se volete, dal fatto che per Trump la Libia non sia in effetti un teatro prioritario, lo è l'Iran, lo è l'Iraq, come sappiamo benissimo. Quindi sì, la Francia conta poco l'Italia, conta questo nuovo grande gioco in cui le potenze esterne si appoggiano a potenze interne che sono invece divise. Dietro Haftar c'è l'Egitto, un paese anche per noi fondamentale, e dietro ad al-Serraj ci sono c'è la Turchia fondamentalmente, in parte l'Italia, e le Nazioni Unite, che però vediamo benissimo che l'azione di Ghassan Salamè non riesce effettivamente a risolvere nessuna delle crisi aperte. E proprio perché la situazione si sta rapidamente evolvendo e nella direzione che proprio lei, Marta Dassù, stava citando, cioè Russia e Turchia che mettono ancora di più i piedi nel piatto libico, mi sembra che gli avvicinamenti, per esempio cito ancora Macron, che è stato il primo a telefonare a Putin subito dopo l'omicidio di Soleimani, quindi gli avvicinamenti magari non proprio dichiarati ma forti che ci sono in questo momento tra alcuni paesi europei e Putin. Ho citato la telefonata di Macron a Putin, cito quello che dice il ministro degli esteri Luigi Di Maio in un'intervista oggi al Fatto Quotidiano, dice noi dobbiamo fare in modo che si parlino Stati Uniti e Russia. Allora la domanda è, dopo aver molto parlato di rapporti con la Russia, anche segnati da varie vicende anche giudiziarie, è possibile che quanto sta accadendo in Medio Oriente rimetta in gioco il dialogo con Mosca, con Putin, apertamente dai paesi europei? Credo senz'altro di sì. Insieme a Macron c'è l'annuncio di un contatto diretto fra Merkel e Putin. Oggi Franco Frattini, ex ministro degli esteri, propone che l'Italia faccia la stessa cosa, però io penso che i rapporti con la Russia rimarranno, per così dire, divisi in settori. Ad esempio tutta la questione delle sanzioni è legata al teatro ucraino, un teatro completamente diverso su cui il pallino in mano lo ha la NATO e lo hanno gli Stati Uniti. Quindi è possibile che si apra, e sarebbe anche necessario, un dialogo con la Russia sugli equilibri medio orientali, nordafricani e medio orientali, Libia e Siria. Mi sembra molto difficile invece che si possa parlare di cancellazione di sanzioni che dipendono dal teatro ucraino. Dassù, ritiene che siamo vicini ad una guerra su quella, non mi riferisco allo scenario libico, dove mi sembra abbastanza probabile, poi per carità chiedo lumi anche a lei su questo, c'è già in sostanza, mi riferisco soprattutto a quello che succederà dopo l'omicidio di Soleimani. Si parla di una terza guerra nel Golfo, ma le tesi sono su questo molto diverse, la mia, ma un'opinione che vale quello che vale, è che l'Iran reagirà selettivamente, probabilmente verso obiettivi militari americani, ma non ha la forza economica, neanche la forza militare, di scatenare una guerra su larga scala. Questo io credo che si possa escludere. E la verità è che l'operazione molto discussa di Trump, e cioè l'eliminazione di Soleimani sul suolo iracheno, è stata tesa a ristabilire anche una sorta di deterrenza, e questo in parte funzionerà. Poi naturalmente c'è tutto il problema del nucleare. Questa azione ha seppellito definitivamente quell'accordo sul nucleare con l'Iran, a cui gli europei hanno lavorato molto. L'Iran ricomincia ad arricchire l'uranio probabilmente al 20%, ma ci vorranno ancora mesi o anni prima che riesca a raggiungere una vera capacità nucleare. Quindi sarà una tensione ad alto rischio che può riguardare teatri dove siamo particolarmente esposti, in particolare l'Iraq, dove abbiamo 1000 uomini, il Libano, dove siamo da anni nella missione UNIFIL a confine con Israele, ma non credo in una terza guerra del Golfo. E l'ultima cosa che vorrei chiederle, Marta Dassù, ci riporta invece agli Stati Uniti. Qualcuno, e io dissento da questa analisi, qualcuno almeno all'inizio, a caldo, subito dopo l'omicidio di Soleimani, ha evocato la possibilità, no, che questo servisse da arma di distrazione di massa dai problemi che Trump ha e relativi all'impeachment che è stato avviato nei suoi confronti. Personalmente non credo che sia così, ma le chiedo se questo evento così disruptive avrà effetti intanto su come i repubblicani reagiranno quando dovranno prendere posizione rispetto all'impeachment, e poi sulla campagna presidenziale che è di fatto già cominciata. Ma io sono d'accordo con lei, nel senso che la dinamica che ha portato all'assassinio al targeted killing, all'eliminazione di Soleimani, è una dinamica relativa al rapporto con l'Iran. L'impeachment è fuori questione, perché è un processo fondamentalmente politico in cui la grande maggioranza dei repubblicani starà con Trump. Questo si è già visto chiaramente alla Camera, non sono previste defezioni importanti. Certamente l'esistenza di un'alta tensione con l'Iran durante l'anno elettorale può avere un peso nella campagna elettorale, ma credo a favore di Trump e non dei democratici, perché i democratici su un tema come questo tendono a dividersi, sono già divisi su parecchie cose, fra cui le scelte di politica economica, si divideranno anche sulla politica estera, quindi sinceramente non credo che questo fatto possa indebolire Trump. Grazie a Marta Dassù, direttrice di Aspenia, che magari risentiremo nelle prossime settimane per qualche aggiornamento su questa crisi. Noi ci fermiamo. Prima di fermarci però fatemi fare una precisazione sui numeri dei morti. No, lo voglio fare io, perché scusami, sono io che ho sbagliato. No, lo so, sono morti per milione. Sono morti per milione, era una citazione dall'articolo di Ferruccio Sanza dal Fatto Quotidiano. Sì. Io ho dato la cifra, ho dimenticato di dire che la cifra, per esempio, di 55 vittime in Italia e di, faccio un esempio, 32 in Svezia, va considerata per milioni di abitanti. Sì, per milioni di Quindi abitanti. Questo avevo dimenticato di dirlo. Che ci consente di dare anche delle cifre assimilabili, no? Perché è diverso il numero di abitanti, quindi quando fai la cifra per milione di abitanti, ovviamente dai resta una cifra. Resta il fatto che negli altri paesi alla guida non ti metti quando hai bevuto. Il punto resta. Una pausa e poi Salvini. Mattino. Matteo Salvini, leader della Lega, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a chi è in macchina e buongiorno agli studenti che tornano a scuola. Buongiorno Salvini. Senta, entriamo subito in quello che è il tema che abbiamo appena lasciato. Eravamo prima al telefono con il direttore di Aspenia, Marta Dassù, e insomma l'omicidio di Soleimani, la morte di questo uomo fondamentale, uomo chiave per la politica iraniana, ha aperto, inutile negarlo, degli scenari imprevedibili di guerra. Ora ci si interroga anche sul ruolo dell'Italia. Questa mattina sul Fatto Quotidiano, in un'intervista che abbiamo già citato più volte, il ministro degli esteri Luigi Di Maio dice qualcosa di molto pesante nei suoi confronti, perché gli viene chiesto: Salvini punta all'arrivo in massa di profughi dalla Libia per vedervi in crisi? E risponde Di Maio: noi lavoriamo per tutelare i nostri interessi geostrategici, ma anche per scongiurare il rischio dell'arrivo in massa di migranti. E l'ex ministro dell'interno Salvini avvocò totalmente a sé il dossier libico, puntando solo sull'immigrazione per farne un tema da campagna elettorale. Una scelta del tutto sbagliata, dice al Fatto Quotidiano Luigi Di Maio, di fatto accusandola di cinismo. Di fatto dice Salvini, si volle tenere tutto per sé il dossier Libia proprio perché sulla questione immigrazione aveva puntato tutta la sua comunicazione politica. Che gli risponde? Quindi è colpa di Salvini, anche a gennaio 2020, anche se sono al governo ormai da quest'estate, è colpa di Salvini. È un po' noioso sto ritornello, se aumentano le tasse, mettono la tassa sulla plastica, sullo zucchero, sugli euro 3 diesel, sulle lotterie, sulle auto aziendali, è colpa di Salvini. Se firmano il MES, è colpa di Salvini. Se aumentano gli sbarchi, è colpa di Salvini. Se Trump attacca e avvisa tutti, tranne che il governo italiano, è colpa di Salvini. Cambiassero il ritornello. Di Maio dice, siccome il dossier libico fu avvocato totalmente dal ministro dell'interno, che all'epoca era lei, noi oggi non contiamo più in Libia, dice fino ad agosto l'interlocutore primo per la Libia era l'Italia. Io ho incontrato più volte il premier, il vice premier, il ministro degli interni, il ministro degli esteri, più volte, e la situazione era sotto controllo. Questo ad agosto, ovviamente, finché facevo il ministro. Siamo a gennaio, adesso ci sono i militari turchi, ci sono i russi, ci sono gli egiziani, ci sono i francesi, ci sono tutti e nessuno chiama più gli italiani. È colpa di Salvini? Dai, siamo seri. Se non sono capaci di fare i ministri, facciano altro nella vita. Salvini, lei che farebbe in questa situazione, scusi, se fosse al governo? Il problema è che cosa non è stato fatto a settembre, a novembre, diciamo, sarei in Libia, non sarei a Palazzo Chigi a parlare di legge elettorale con Pingaretti, con quello che accade in Libia, con quello che accade in Iran. Però Salvini, no, mi scusi, in Libia, in Libia a fare cosa? L'unico governo legittimamente riconosciuto dalle Nazioni Unite. È chiaro che se Conte e Di Maio fanno il classico italiano che dà ragione il lunedì a uno e il martedì all'altro, li fa incazzare tutte e due e perde credibilità sia con l'uno che con l'altro. E allora uno chiama i turchi, l'altro chiama i francesi, l'altro chiama i russi, l'altro chiama gli egiziani e nessuno chiama gli italiani. E ci sono aziende italiane a rischio, lavoratori italiani a rischio, c'è l'ENI e poi c'è il tema immigrazione, che guarda caso da ministro che si occupava di sicurezza era uno dei miei dossier ed era sotto controllo. E adesso mi sembra che sia fuori controllo anche quello. E secondo quel genio di Di Maio sarei io che vorrei alimentare l'immigrazione dalla Libia, da senatore dell'opposizione. Dai, stiamo veramente su scherzi a parte. Il viaggio di Di Maio era previsto appunto in Libia, doveva esserci un summit che però è stato bloccato. A casa, Luigi, ci stai simpatico ma non ci servi. Siamo arrivati, è drammatico, perché noi, cioè non so se chi ascolta, perché la politica interna è irrimediabile, cioè gli errori di questo governo, la prescrizione, la tassa sulla plastica, i litigi, è irrimediabile. Quando perdi credibilità all'estero, quando non ti chiamano, quando non ti invitano, quando ti dicono stai pure a casa tua e invitano gli altri, quello è un enorme problema. Salvini, mi scusi, lei ha detto che se fosse al governo andrebbe in Libia a sostenere sostanzialmente il governo di Tripoli, no, quello di al-Sarraj. Come abbiamo sempre fatto. Come avete l'unico sempre fatto. Un governo legittimamente riconosciuto dalla comunità internazionale. L'impressione che però sia un governo. Con cui dialogavo io. Sì, l'impressione però che sia un governo estremamente debole, Salvini. Insomma, la possibilità che Haftar si prenda il paese, come di fatto ieri si è preso il nodo nevralgico del petrolio libico, sia Sirte, è nei fatti. Insomma, a fronte di una Libia nelle mani di Haftar, che cosa farebbe l'Italia? Cosa dovrebbe fare l'Italia? Ragazzi, chiedetelo a chi è in carica, io so cosa farei io. C'è un governo riconosciuto, uno, e c'è qualcuno che invece aggredisce invitando militari di altre parti del mondo? Io sostengo per dignità, per coerenza, per correttezza e per rispetto degli accordi presi, il governo legittimamente riconosciuto. Io da ministro parlo con i ministri, non con i guerriglieri, per intenderci. però è 5 mesi che non sono più al Ministero dell'Interno, quindi non so chi stia parlando con chi. Prendo solo atto da lettore dei giornali che mentre fino a quest'estate il governo italiano e l'Italia, il paese Italia, era il primo chiamato dalla Libia perché ci vogliono bene, ci conoscono, ci amano, a gennaio 2020 ci dicono state a casa vostra. Io non prenderei atto dell'avanzata militare di un governo non riconosciuto ai danni dell'unico governo riconosciuto dalle Nazioni Unite. Manderebbe delle truppe, Salvini? Manderebbe delle truppe lei? Ma no, adesso no, adesso non altrimenti se io rispondo alla Turchia e poi arrivano gli egiziani, poi arrivano i francesi, poi tornano gli americani, è un caos. Io ho sempre lavorato con la Libia in silenzio, senza conferenze, e i risultati gli italiani li hanno visti sotto i loro. Senta Salvini, capitolo Russia, capitolo importante, visto che la Russia si appresta a giocare un ruolo fondamentale anche in Libia dopo averlo giocato in tutta l'area. Ora sorprende, ma insomma è così, che in qualche modo sia Di Maio nell'intervista già citata che l'ex ministro degli esteri Frattini diano notizia del fatto che secondo Di Maio Russia e Stati Uniti si devono parlare e secondo Frattini Di Maio vuole la completa revisione delle sanzioni a Putin. Insomma, così come Macron ha telefonato a Putin nel giorno stesso in cui c'è stata la notizia dell'attentato a Soleimani, sembra che l'Europa, la Merkel ha telefonato a Putin, Di Maio dice bisogna parlare e secondo Frattini togliere le sanzioni alla Russia, sembra che l'Europa riveda un po' la posizione che c'era prima di grande frattura. Lei che ne pensa? È che è meglio tardi che mai, lo sostengo da anni sostengo l'inutilità delle sanzioni contro la Russia e il pericolo di isolare la Russia facendola avvicinare alla dittatura cinese, e l'interesse culturale, economico, pacifico e geopolitico di avere la Russia come interlocutrice, come amica e come alleata, piuttosto che averla come nemica, solo che ogni volta che lo dicevo aprivano un'inchiesta. Perché Salvini prende i rubli, Salvini è amico di Putin, Salvini compra il petrolio, Salvini c'ha i milioni nascosti in Svizzera, adesso se ne accorgono che è meglio averlo amico Putin che come nemico. Benvenuti, ci hanno messo qualche anno, speriamo che dalle parole si passi ai fatti. Una pausa. "24 Mattino". Lei mi pare, Salvini, che abbia espresso soddisfazione, no, per il raid nel quale è stato ucciso Soleimani, no? Mi sbaglio? Ma quando si colpisce un problema per la pace nel mondo, quando si interviene contro un paese che ritiene che Israele debba essere cancellato dalla faccia della terra, è una buona notizia. Quel paese però, Salvini, è sostenuto sostanzialmente dalla Russia, cioè il rapporto è molto stretto e lei lo sa benissimo, cioè non è che diciamo niente di pazzesco da questo punto di vista. Allora la mia domanda è, con un Salvini ipotetico presidente del Consiglio, in una situazione di questo genere come ci si pone, visto che il rapporto con, a prescindere da tutte le questioni su rubli, non rubli eccetera, Salvini, cioè proprio una questione di rapporti con la Russia che come è noto sono abbastanza forti da parte sua, il suo sostegno a Putin è stato espresso in più di un'occasione, come ci si mette in una situazione di questo genere? Ma innanzitutto conto che al governo, se un alleato della NATO come gli Stati Uniti decidono un'azione del genere, quantomeno mi avvisino e non lo lega sui giornali o non lo senta su Radio 24, che sarebbe frustrante, e conto di avere buone relazioni internazionali per essere in grado di essere avvisato e non dico di condizionare, ma quantomeno di discutere questi interventi. Per il resto, tutto quello che va contro il terrorismo islamico, il fanatismo islamico, l'estremismo islamico è a favore della libertà e dei diritti. Questo a costo di rompere un rapporto privilegiato, questo a costo di rompere un rapporto privilegiato eventuale con Mosca? No, ma i rapporti umani e politici ci sono, a prescindere. Io penso che il pericolo pubblico numero uno al mondo in questo 2020 continui purtroppo a essere il terrorismo, l'integralismo e il fanatismo islamico. Una risposta... Quindi questo va combattuto ovunque, senza se e senza ma. Senta, una risposta secca. Secondo lei il ministro degli esteri Di Maio è all'altezza del ruolo? Sta facendo meglio del precedente ministro degli esteri di quando eravate al governo insieme? Mi sembra evidente che non sia così, ma non è colpa solo sua. Cioè, se il Milan faceva pena nel 2019, ha fatto pena pure ieri, non è colpa di un giocatore, è colpa della squadra. Poi mi sembra che manchi proprio l'idea di squadra, il concetto di squadra. Sono lì a parlare di legge elettorale, a cercare di capire come tirare a campare mentre il mondo avanza. Io sentivo la pubblicità della fiera del calcestruzzo a Piacenza a ottobre. Io spero che l'edilizia sia ripartita da qui a ottobre, perché il codice degli appalti sta bloccando tutto, la burocrazia incrementata in questa manovra economica sta bloccando tutto, ed è difficile attaccare un ministro. Evidentemente c'è una squadra che è raffazzonata e che non funziona. A proposito di questa squadra fa parte anche Italia Viva, che su molte questioni, dalla prescrizione alla revoca delle concessioni a Autostrade, la pensa come lei, cioè Renzi è una specie di suo alleato contro Conte. Allora mi fa capire come mai invece sul caso Gregoretti Italia Viva ha comunicato che si esprimerà per consentire il processo a suo carico? Fa parte di una strategia anche questo? Ma guardi, non lo so, io sento tante chiacchiere, ma fatti zero, da parte di Renzi, di Conte, di Zingaretti. Tutti dicono no, però poi la tassa sulla plastica ci sarà, la tassa sullo zucchero ci sarà, Ilva è nel caos, Alitalia è nel caos, Mercatone 1 è nel caos, sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico ci sono 160 tavoli di crisi aziendali aperte, senza che nessuno abbia idea di come uscirne. E che cosa ha in testa Renzi? Chiedetelo a Renzi, non sono bravo a fare gli oroscopi o a fare la schedina del Totocalcio, tanto Renzi dice una cosa lunedì e ne fa una diversa il martedì. Sulla nave Gregoretti e sullo sbarco che io bloccai quest'estate per 4 giorni per avere certezza che gli immigrati a bordo sarebbero stati redistribuiti in 5 paesi europei, se vogliono usare questo sbarco per mandarmi a processo, mandarmi in tribunale con un rischio di 15 anni di carcere sulle mie spalle, non trovano un uomo preoccupato, perché sono orgoglioso di aver difeso i confini e l'onore del mio paese. E se gli italiani mi rimanderanno al governo, rifarò esattamente la stessa cosa. Senta Salvini, oggi addirittura il quotidiano Libero ci apre, c'è una... cosa ne pensa di questa sgrammaticata minaccia di morte che le è arrivata via Twitter? Ma sono decine al giorno e non ci faccio caso, vado avanti, mi telefonate mentre sono a finale Emilia, adesso vado a visitare una discarica perché c'è il problema dei rifiuti, dello smaltimento dei rifiuti anche qui in Emilia, poi vado a visitare un'azienda agricola, faccio il mio lavoro, sicuramente quelli che vanno in piazza contro Salvini, contro l'odio, contro la Lega, poi spesso e volentieri sono quelli che istigano all'odio, ma io rispondo col sorriso e col lavoro, non mi preoccupo, mi spiace per i miei 2 figli, che ormai come tutti i ragazzini e i papà e le mamme all'ascolto lo sanno, navigano su internet e quindi leggono un giorno che c'è la scritta contro Salvini, sparate a Salvini, attendete Salvini, uccidete Salvini. A me ormai non fa più effetto se non un po' di pena. Mi spiace per chi mi vuole bene, magari si preoccupa, però non c'è motivo per preoccuparsi. Senta Salvini, lei è in Emilia Romagna, il Partito Democratico si dice confidente che Bonaccini vincerà e comunque, anche se non dovesse vincere, dicono tutti, da Zingaretti a Conte a Di Maio, il governo non cadrà perché si tratta solo di elezioni locali. Per lei invece è un test nazionale. Che succede nell'uno caso e nell'altro? Cioè, che succede se vince la Borgonzoni? E che, al governo, intendo, e che succede se vince invece Salvini, secondo lei? Io sento tantissima voglia di cambiamento, qua c'è una burocrazia regionale che soffoca famiglie e imprese, ci sono aziende agricole in difficoltà, ci sono infrastrutture ferme, voi fate anche IGR sulla viabilità, qua c'è la Tirreno-Brennero che è lì bloccata in idea da anni, c'è la Cispadana, ci sono le dighe sugli Appennini, ci sono punti nascita chiusi. Quindi c'è tanta voglia di cambiamento dopo 50 anni di sinistra, mi sembra evidente, e quindi il 26 gennaio penso che sarà una festa di popolo un voto di popolo come in Umbria, poi cosa succederà a Roma? Non lo so, in questi mesi gli italiani mi sembra che abbiano capito che Conte, Renzi e Di Maio e Zingaretti sono avvinghiati alla poltrona come un salvagente, però tanto l'Italia va avanti, il mondo va avanti, quindi non penso che potranno rimandare le elezioni all'infinito. Mi auguro che si voti nel 2020. Ecco, questo me lo auguro non per Salvini, perché l'economia italiana è totalmente ferma. Siamo ultimi in Europa e quello che accade nel mondo non ci aiuta, però questa manovra economica con 7 miliardi di euro di nuove tasse certificate dalla Corte dei Conti è la cosa più stupida che si potesse fare. Dobbiamo aspettarci nuove 5 Stelle in arrivo alla Lega? Ma guardi, le persone di buona volontà che si sentono tradite da Grillo, Di Maio e vogliono continuare a combattere per il cambiamento hanno nella Lega porte aperte. Qui noi non cerchiamo nessuno e non promettiamo niente a nessuno. Paragone l'ha sentito lei in questi giorni? Perché immagino che ci sia un minimo di rapporto, visto che no. Visto che era prima il direttore della Padania. Era il direttore della Padania. Infilarmi nei problemi interni degli altri, ma è chiaro, allora, siamo qua in Emilia Romagna, i 5 Stelle sono nati qua in Emilia Romagna. Vi ricordate il primo Vaffadei di Grillo a Bologna contro il sistema delle banche, il sistema della finanza, il sistema delle cooperative onnipresenti, che qua significa PD. E per gli eletti e per gli elettori del PD, passare da mai col PD, mai con Bibbiano, mai con Mafia Capitale, a essere al governo con Renzi, Franceschini, Gentiloni e Zingaretti, è chiaro che per molti di loro è un tradimento inaccettabile. Io quando dico mai col PD, mantengo mai col PD. Grillo e Di Maio hanno fatto una scelta di potere. Vabbè, aveva detto anche mai con i 5 Stelle prima del voto, no Salvini? Ma poi abbiamo messo giù, penso, in un anno di governo da quota 100 alla flat tax, alla legittima difesa, alla lotta alla mafia, all'immigrazione clandestina, penso che gli italiani ci abbiano apprezzato, altrimenti non saremmo diventati. Direbbe anche mai con Italia Viva? Direbbe anche mai con Italia Viva? Ah, se c'è Renzi non ci sono io. Grazie Matteo Salvini, leader della Lega, per essere stato con noi. Chiudiamo qua. Buona giornata. Buona giornata. Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in assistenza in redazione, Margherita Inè, Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Cara Maria, ci risentiamo domani alle 8:20. A domani, ciao a tutti. Per quanto ci riguarda, invece alle 6:30 di domani mattina, vi aspetto. Ciao.